Allora, 20 e 31 minuti primi, ci siamo per un'altra puntata, la seconda puntata di 80 Special, musica e tendenze anni 80 con Carlo e Marco Micheli. Benvenuti a tutti i nostri amici di Facebook, di Instagram, eccetera. Benvenuti a tutti a questa seconda edizione del nostro programma, appunto focalizzato sulla grande musica degli anni 80. E allora, un grande abbraccio a tutti. C'è stato un notevole riscontro, un buon riscontro la settimana passata, sia su Facebook sia sul server della nostra radio, che vi ricordiamo è il nostro sito www.radiocerrano.net. ma questa sera abbiamo fatto le cose in grande e siamo stazionati, abbiamo anche riaperto il sito di www.radiotriweb.caster.fm, oppure digitate semplicemente www.radioatri.net, quindi in collegamento proprio a 360 gradi. Vi ricordiamo purtroppo che su Facebook non è assolutamente possibile, non perché non abbiamo i diritti, ma perché Facebook non ha i diritti per trasmettere musica. Sapete che c'è una sorta di contenzioso con le major, per cui noi vi facciamo vedere il video e l'audio, poi ve lo ascoltate sul nostro sito. Bene, Marco, io direi di partire con il primo brano, il programma per questa sera. Di questa sera, e sono i Depeche Mode con Everything Counts. Still intact. Driving hands, where will they go? Allora, Depeche Mode, gruppo storico degli anni Ottanta, ricordiamo che questo gruppo è stato fondato a Basildon nel 1980 ed uno dei protagonisti è stato anche Vince Clarke, che adesso lo ritroviamo con gli Yazoo. Sì, lo ritroviamo benissimo con gli Yazoo, perché lui appunto si è staccato, staccatosi dal gruppo dei Depeche Mode insieme a Alison Moyet, che se non erro la scorsa settimana abbiamo ascoltato con Love Resurrection, ha fondato appunto questo gruppo che appunto chiamato Yazoo. Fu un gruppo appunto negli anni Ottanta abbastanza importante, con musica dance, post-punk un po' particolare. Synthpop, ovviamente la base ovviamente è sempre musica elettronica, musica post-punk e musica dance. Ascoltiamoci questa Situation. Ooh. Vince Clark e Alison Moyet con Situation, chiaramente Yazoo, gruppo che prende nome da una famosa etichetta discografica blues, appunto chiamata Yazoo. Vince Clark in seguito fonderà gli Erasure, in tutto gli album dei Yazoo sono due. Questa era Situation, quando sono le ore 20 e 42 minuti primi, e noi salutiamo tutti gli amici che abbiamo invitato all'ascolto, Dora, Domenico, Velia, Marcello, tutto il gruppo Brasil che ci ascolta volentieri. Sono in tanti. Ciao Marcello, un abbraccio a tutti voi. E adesso proseguiamo con un gruppo che ci siamo dimenticati di selezionare la scorsa volta, ma che con questo brano veramente negli anni 80 fece faville. Sì, rimaniamo sempre in tema di anni 80, ovviamente, di musica sintopop. Abbiamo ascoltato la scorsa settimana qualcosa di, appunto, di Human League. Human League ha in qualche modo a che fare con questo gruppo che viene chiamato Even 17, un nome di questa band rubato un po' dal film della band immaginaria di Arancia Meccanica. Due componenti del gruppo degli Human League, quindi fugge via da questo gruppo fondando appunto gli Even 17, leader soprattutto della sintopop. E noi ascoltiamo oggi questo pezzo iconico che si chiama Let Me Go. Souls are locked and frozen. Once we were years ahead, but now those stars are dead. Let me go. All hopeless fantasies are making fools of me. Let me go. I walk alone and yet never say goodbye. Let me go. Change your mind. Time. Il long play si chiamava Penthouse and Pyment, dove appunto era contenuto questo splendido brano Let Me Go, Lasciami Andare. Era appunto un po' un inno al, diciamo così, al fuggi fuggi dalla, dalla grande città di appunto di Londra. Loro sono nati comunque a Sheffield, un diciamo un luogo abbastanza conosciuto soprattutto per chi tratta gioielli, no? Ma a parte i gioielli, cioè, l'argento di Sheffield, ma c'è anche, diciamo, una pesante industria, grandi industrie di acciaio. Sì, non solo, ma è appunto conosciuta soprattutto per, pure per la musica, anche per la produzione di questo argento particolare, appunto chiamato argento di Sheffield. Come ripeto, un gruppo nato un po' dalla costola rotta dei degli Human League, un gruppo diciamo di synthpop. Abbiamo ascoltato questa Let Me Go. veramente questa sera vi abbiamo fatto ascoltare un'altra grandissima chicca degli anni Ottanta, New Order, gruppo che poi nato dai Joy Division dopo la morte del cantante. Pensate che questo è uno dei vinili più venduti della storia del rock, i New Order con Blue Monday. Ricordo che siete all'ascolto di 80 Special, dico sempre Special 80, 80 Special, special 80 con Marco cosa. Mix che vuole sempre rubare la scena. Assolutamente no, assolutamente no. Sempre, voi non ascoltate, ma fuori onda c'è sempre una lite, scoppia sempre una disputa fra di noi per chi deve iniziare, insomma, perché per chi deve rubare la scena un pochettino. Come avveniva... Diciamo che il protagonista assoluto sono io, quindi ok, lasciamo perdere. Assolutamente, va bene, no, ci stiamo veramente divertendo. E salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo. Io voglio salutare anche il grandissimo Ciucciu Ranieri, per il quale abbiamo riaperto il mitico Ciucciu questa sera anche Radio AtriWeb, che poi è stata la prima nostra esperienza online, poi Radio Atri 1 chiaramente, e salutiamo il grande Ciucciu. Ciao, buon ascolto. E poi non so, Marco, vuoi ascoltare, vuoi salutare gli altri? Sì, io ci tengo particolarmente a salutare tutti i miei colleghi di lavoro, in particolare Stefano, Carmine e tutti gli altri che sono sicuramente all'ascolto, mi hanno già mandato diciamo così alcuni messaggi, sono ben visibili sul profilo appunto della nostra Radio Cerrano Web. Li saluto. Cioè, salutare anche Donatello, Enzo, poi Stefano, Franco, Stefano, vabbè, l'amico tuo, e poi Adriana, Michele, Marco, guarda la trasmissione, vabbè, chiaramente sei anche tu sintonizzato, per beh, cui sì, insomma sì. Ti visualizziamo. Sempre con gli anni Ottanta, rimaniamo sempre fermi a questa annata, diciamo, eccezionale. Forse sicuramente molti di voi ricorderanno questo gruppo, che è stato un po' una meteora tra virgolette, però molto diciamo così ascoltato in quel periodo. Loro sono i Visage e questa è Fade to Grey. Two eyes staring cold. Beh, veramente questo è stato un altro grande successo, non solo questo, veramente gruppo Meteora e Visage. Diciamo che hanno realizzato altri due o tre brani, però sicuramente questa Fade to Grey è stata un po' la punta, la loro punta di diamante. Infatti, però, volevo ricordare che questo gruppo Synthpop era composto anche da Mijur e Billy Curry degli Ultravox. Tra l'altro io ho avuto modo di vedere gli Ultravox a Chieti e di conoscere anche Mijur. Erano i Visage con Fade to Grey a Radio Cerrano. Erano così Cure con Forest, uno dei primissimi brani di questo gruppo che ha sbancato anche in America. Robert Smith a Radio Cerano Web, rinnoviamo il saluto a tutti voi che ci state ascoltando e con siete grande... veramente in tanti siete, sì, con grande sera. Soddisfazione notiamo che un pochettino vi siete sganciati da Facebook, dove noi abbiamo un video, e siete stazionati su Radio Cerrano Web, sul nostro sito, dove noi operiamo alla grande. E per cui vi salutiamo, vi ringraziamo per essere qui con noi, con Carlo e Marco Mix. Vi ricordo che questa è Special 80, 80 Special, di tanto 80, un po' come la Vespa, programma, 80, 70, 75 Special truccata. Sì, programma degli anni nostri, insomma. Dei nostri anni, sì, continuiamo sempre con la musica, questa volta con una musica un po' più dolce, ma anche nello stesso tempo un po' più, diciamo, calda. Lui si chiama Billy Idol ed è stato appunto negli anni 80 un leader di questo tipo di musica new romantic, anche un po' synth pop, e questo è stato sicuramente un brano che l'ha portato al successo. È Eyes Without Face, Billy Idol. Quante volte abbiamo ballato questo brano negli anni 80, un successone di Billy Idol, che tu forse non sai perché ha questo cognome. Sì, Billy Idol ha questo cognome, se non erro, perché lui all'età, credo, non so, quando andava a scuola, se non ricordo male, prese un, diciamo così, la sua maestra, la sua professoressa, scrisse che lui era un fannullone, quindi scrisse in inglese la parola Bill Idol, che significa appunto fannullone, se non erro, vero? Insomma, uno che... Però lo offese. Sì. E lui comunque da questa offesa poi si è costruito un po', tra virgolette, il suo nome, appunto, il suo nome di diciamo d'arte, per appunto per entrare poi nel mondo della musica post-punk, rock o new wave, perché diciamo in quel periodo c'erano veramente tanti generi. Insomma, lui musicali. Era anche un fan dei Sex Pistols. Mi sembra di aver letto che era anche a capo, insomma, di questa organizzazione, per cui insomma poi partecipò anche a un concerto, da lì poi è nata anche la sua carriera professionale. E qui dobbiamo continuare con i saluti, perché ci sono persone che ci stanno ascoltando anche dall'estero e ci tengono ad essere menzionate. A noi fa veramente tantissimo piacere, perché non abbiamo nessuna pretesa se non quella di stare insieme a voi questa sera con della musica. Quindi risalutiamo il nostro amico Ciuciu, che ci ha detto che ci sta ascoltando da Timisoara. E questo lo abbiamo provato, perché ovviamente abbiamo delle diciamo così, delle applicazioni dove riusciamo a localizzare diciamo così l'ascolto, no? Geolocalizzato in tutto il mondo. Eh sì, così, insomma, questa è la web radio, ci stiamo lavorando veramente tanto, stiamo facendo anche tantissime altre cose con Facebook, stiamo facendo delle prove tecniche in Atri per la notte dei Faugni. E vi invitiamo a venire, soprattutto. Invitiamo a venire ad Atri per questa festa molto particolare. Quest'anno, come al solito, ci saranno degli ospiti importanti che poi nel proseguo del programma, le prossime settimane, vi faremo sapere e vi informeremo. Allora, Eyes Without the Face era Billy Idol, e non ci resta che continuare con un altro bellissimo brano. China Crisis, gruppo non famosissimo negli anni 80, però io sono abbastanza affezionato a questo gruppo, soprattutto a questo brano che insomma ricorda tantissime cose, adesso non stiamo qui a spiegare. E i China Crisis ultimamente hanno rifesteggiato dopo tanto tempo il successo anche di quell'album che si intitola Found Imperfection. Alle 21:19 minuti primi, ricordiamo che siamo sempre in diretta e dobbiamo salutare anche una nostra amica che ci sta ascoltando e che si chiama Maurita. Ciao Maurita, ciao da tutti noi da Radio Cerrano. Ciao Maurita. Ciao, buon ascolto. Come vedete, adesso a questo punto siamo entrati anche in una situazione musicale abbastanza soft, ma è anche giusto perché ci sono tantissime cose belle da ascoltare. Un'altra è questa di David Sylvian, che è stato leader dei Japan, che nel corso della sua carriera ha fatto veramente delle cose bellissime. Questa è Silver Moon. Against the passing tides of love, every doubt that holds you here will find their own way out. I will build a shelter if you call. Just take my hand and walk. The mountains high and wide, bridging rivers deep inside, with the will to guide you on, your heart will need no one. Those days have gone. Thank you. Un raffinatissimo pezzo di David Sylvian, Silver Moon, insomma, anche su questa canzone, sulla famosissima discoteca di Martin Sicuro. Sì, Marco, sì, ci sembra da dire tantissime cose. Sì, praticamente lì è stato un po', diciamo così, una zona franca per poter scoprire i nuovi generi musicali, le nuove tendenze, eccetera. Perché se ricordate bene, negli anni 80 non avevamo assolutamente Facebook, internet, eccetera. Quindi, diciamo, si viveva un po' di esperienze altrui. Diciamo che la radio, comunque, sì, è il nostro primo social. Sicuramente, però diciamo, per importare le tendenze, comunque per vedere le nuove mode, chiaramente la discoteca poteva essere un luogo importante. Parliamo ovviamente delle mode musicali, o comunque le mode quelle un po' più, tra virgolette, un po' più frivole. Tutto ciò nasceva un po' da Rimini, così, dalla famosa Baia degli Angeli, quindi da lì nasceva un po' il nuovo genere musicale, afro rock, eccetera, e poi anche il nuovo modo di vestirsi, di interpretare un po' la vita, eccetera. E il Silver Moon, tra virgolette, situato un po', diciamo così, a 180, quasi 200 km da Rimini, riusciva un po' a portare queste tendenze un po' nel nostro Abruzzo, tra virgolette. E diciamo che è stata una delle prime maxi discoteche, comunque. Sì, eh? Insomma, c'erano tre sale, insomma, poi noi facevamo il giro, nel senso che andavamo prima a ballare a Martin Sicuro, e siccome il nostro genitore, non so, era di Civitella del Tronto, quindi si dormiva poi si faceva la notte poi a Civitella del Tronto, perché Martin Sicuro, e sono tanti i nostri amici e le amiche che ci ricordano, sì, queste partite, queste sortite, queste magnifiche serate al Silver Moon. E vi possiamo garantire che comunque la musica era di tutto rispetto. C'era un grandissimo disc jockey che io non mi ricordo il nome, forse probabilmente tu, non so se te lo ricordi, Gian Galeazzo, una cosa del genere, comunque molto bravo, sì. Qualità della musica veramente altissimi livelli. Io direi ancora, sì, io direi di salutare Natalia, la nostra amica Natalia, che ci sta ascoltando, ci sta guardando, e Patrizia, la nostra carissima Memorix. Si riparte con la musica. Yeah. Vabbè, io adoro a tal punto questo gruppo che stiamo volando veramente in alto, stiamo volando veramente in alto. voglio vedere se hai capito il senso. No, del adoro talmente tanto questo gruppo che questa sera porto la maglia dei B-52s, eccola qui, fatta apposta per me ed acquistata in Inghilterra. Gruppo che prende il nome, tu lo dal sai, dal famoso aereo bombardiere B-52s, perché appunto una componente del gruppo, una serata, loro si incontrarono, diciamo, in un ristorante cinese, iniziarono a parlare di gruppo, iniziarono a parlare di, ovviamente, di musica, e da lì questa cantante che si presentò con una conciatura molto particolare, quindi molto pomposa, e assomigliava alla carlinga appunto del famoso bombardiere della Lockheed B-52s, che è un'altra cosa. Comunque, diciamo, trovarono questa, diciamo così, tra virgolette, questa retta che coniugava l'aereo con il gruppo, e nacquero appunto i B-52s, che abbiamo un elenco di generi musicali legati a questo gruppo, dal post-punk al sinto, insomma, alla new romantic, eccetera. Ci sono veramente tanti, diciamo così, tanti generi, ed era particolare appunto di quel periodo, perché in quel periodo appunto la musica, diciamo, aveva una grossa esplosione, quindi voleva andare sicuramente da qualche parte, ma in qualche modo si legavano a quello, a quell'altro genere che stava venendo fuori. Ecco, diciamo che pure che i testi sono abbastanza simpatici di questo gruppo. C'è una sorta di botta e risposta quando cantano, anche famosissimi brano Private Idol, quindi c'è la cantante, sì, che parla, c'è il cantante che risponde. I testi sono molto particolari, comunque simpatici, positivi, e questi sono i brani che in America, nei party, gli americani vengono selezionati per la maggiore, sono i brani più selezionati nelle feste americane. Continuiamo sempre con la musica, sempre con, e adesso passiamo a un grande leader, punk americano, il gruppo New Wave americana. And shout. Jones is on his way.

Benissimo, benissimo, sono le 21:41, ci siamo un pochettino, siamo andati un po' più lunghi questa sera con 10 minuti in più, ma va bene così. Abbiamo ascoltato un bellissimo brano dei Tangerine Dream, estratto dall'album Excite. Questo e poi era... tu sei un fan di Io sono un fan dei Tangerine Dream, sono un fan della musica elettronica e vi posso dire soltanto due parole su questo gruppo, però importanti. Loro nascono intorno al 1964-65 più o meno da quella matrice da cui sono nati anche i Pink Floyd, quindi della musica psichedelica. Poi diciamo questo Edgar Froese, che è un tedesco, ha un pochettino di più creato un focus sulla musica elettronica, quindi si è specializzato molto di più sul krautrock e ha creato veramente delle bellissime tracce. Io amo particolarmente questo brano perché appunto ricordo benissimo negli anni 80 che in diverse diciamo discoteche così importanti veniva selezionato questa short zone. Siamo arrivati quindi alla fine, salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato. Il tempo è passato velocemente. Abbiamo ascoltato velocemente. Della bella robetta questa sera e noi vi ringraziamo perché nonostante la partita di calcio siete stati in tanti a seguirci e questo a noi non fa altro che piacere. Poi ci fa piacere anche salutarvi, è diciamo un'ora che passiamo tra amici insieme a voi. Ricordiamo che noi non abbiamo nessuna pretesa se non quella di farvi divertire, farvi ascoltare, esatto, di passare un'ora buona musica insieme a voi, insieme alla buona musica, certo. Radio Cerrano certo. Oramai sta prendendo piede, è un pochettino nel cuore di tutti, anche perché ci divertiamo noi soprattutto e questo voi lo percepite, questo è importantissimo. Abbiamo ascoltato quindi bellissimi brani questa sera, vi ricordiamo chiaramente i Depeche Mode, Yazoo, Heaven 17, New Order, Visage, Cure, Billy Idol, China Crisis, David Sylvian, B-52s, Talkiness e Tangerine Dream. Quindi per chiudere questo special 80 con Carlo e Marco Micheli, che vi danno appuntamento alla prossima settimana, sempre alla solita ora, alle 20:30, su Facebook, sui principali social, chiaramente. Noi vi salutiamo e niente, alla prossima, ciao! Ciao!